Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Chiara Santilli. Oggi a Destini incrociati vogliamo ribadire il valore dell'amicizia. Si dice che chi trova un amico trovi un tesoro. Mai frase più azzeccata di questa nel caso dei nostri protagonisti di oggi. Per conoscerli, facciamo un salto indietro nel tempo. È il 1982 e siamo sul set di una piccola produzione hollywoodiana intitolata Night Shift, turno di notte. Può darsi che questo nome non vi dica granché, e anche i nomi di alcuni tra i membri del cast all'epoca non sono di particolare richiamo, volti come quello di Michael Keaton, Kevin Costner, Shannen Doherty, all'inizio degli anni Ottanta non valgono molto, e non convincono di certo le platee a pagare il biglietto del cinema, eppure questo film si rivelerà di importanza capitale, non solo per questi attori ancora alle prime armi, ma destinati a un fulgido futuro di apparizioni sul grande e piccolo schermo. Night Shift avrà un ruolo fondamentale, soprattutto per colui che con aria risoluta, ma ancora lievemente spaesata, sta seduto dietro la macchina da presa. Stiamo parlando di Ron Howard. Ron Howard. Il nostro regista è un intrepido ventottenne dai capelli rossi, qui alla sua seconda esperienza in qualità di fulcro del set. 4 anni prima, nel 1978, ha diretto un lungometraggio dal nome piuttosto bizzarro, Attenti a quella pazza Rolls-Royce. Non è difficile immaginare lo scarso successo ottenuto da un film con un titolo del genere. Eppure Ron Howard ci vuole riprovare. E stavolta vuole che sia la volta buona. Fare il regista è il suo sogno e la sua vocazione. Mi è sempre piaciuto passare del tempo con chi lavorava nel dietro le quinte. Imparare come funzionavano le macchine da presa, i microfoni, le luci, quel genere di cose. E mi divertivo un mondo. E così, dopo un po', ho capito che il regista era la persona che giorno dopo giorno, un po' alla volta, riusciva a mettere insieme questo tutto e tutte queste persone. Ho capito che questo mestiere era il più affascinante che potessi pensare. E che cosa faceva Ron Howard prima di sedersi dietro alla macchina da presa, prima di dedicarsi a quello che gli sembra essere il mestiere più affascinante del mondo? Duncan, Oklahoma. È qui che il primo giorno di marzo del 1954 nasce Ron Howard. Occhi azzurrissimi e capelli rossissimi. Il piccolo Ron, affettuosamente chiamato Ronnie, ha il viso pieno di lentiggini che tradiscono le complesse origini della sua famiglia. Origini che vengono da lontano, dall'Irlanda, dall'Olanda, dalla Scozia. Quella di Ron è una famiglia fuori dal comune, e non solo per l'eterogeneità della provenienza. I suoi genitori, a metà degli anni 50, non si spezzano la schiena nei campi o in qualche fabbrica di una imprecisata provincia americana. In casa Howard si respira un'aria diversa, un'atmosfera che è destinata a influenzare inevitabilmente il percorso del piccolo Ronnie. Gli Howard sono una famiglia di artisti. Sia la madre Jean che il padre Rance, infatti, di mestiere fanno gli attori. Lavorano proprio in quel mondo dello show business che a partire dagli anni 50 si è arricchito di un nuovo, fondamentale elemento: la televisione. Ed è proprio sul piccolo schermo che inizia alla tenera età di 5 anni la carriera di Ron Howard nel mondo dello spettacolo. Non si tratta di un'occasione qualunque. Ron non ha ancora perso il primo dente da latte e già si ritrova a lavorare sul set di una delle serie più celebri della TV. Stiamo parlando di Ai confini della realtà. C'è una quinta dimensione, oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia, è una zona che noi chiamiamo il confine della realtà. L'aspetto di Ronnie, buffo e tenero allo stesso tempo, è ideale per consentirgli di impersonare il figlio perfetto del boom americano. A 5 anni Ronnie non se ne rende conto, ma sta contribuendo a scrivere un pezzo di storia della televisione, americana e mondiale. I've never felt before. Ronnie Howard è solo un bambino. Non ha idea che il suo destino dal set dell'acclamata serie Ai confini della realtà lo guiderà nel corso degli anni in svariati altri luoghi di culto televisivo. Il primo di questi è senza dubbio l'Andy Griffith Show. The Andy Griffith Show, starring Andy Griffith with Ronnie Howard. Nell'Andy Griffith Show, Ronnie interpreta il ruolo di Opie Taylor, il figlio dello sceriffo della città immaginaria di Mayberry. È proprio in questo ambiente che, col passare degli anni e l'acquisizione di una maggiore consapevolezza, Ron capisce che è questo ciò che vuole fare. Il clima e l'atmosfera che si respirano sul set gli sono del tutto congeniali. Dopotutto, per lui è sempre stato così. Venendo da una casa piena di attori, è facile trovarsi perfettamente a proprio agio in mezzo a loro. Ho cominciato a trovare intrigante il lavoro del regista, soprattutto perché quando lavoravo all'Andy Griffith Show, gli attori erano incredibili. Mi divertivo così tanto a bazzicare quell'ambiente. Erano persone interessanti, intelligenti, spiritose, passavano con disinvoltura dalle battute di spirito alla concentrazione estrema necessaria per recitare. Ero affascinato dagli attori già da quando ero un ragazzino. La televisione regala a Ron enormi soddisfazioni, soprattutto se si tiene conto della sua giovane età. Di certo, non tutti i suoi coetanei hanno la possibilità di fare esperienze simili alle sue, ma il piccolo schermo non è l'unico terreno che ama esplorare. Spesso e volentieri Ron fantastica immaginandosi impresso sullo schermo più grande, quel rettangolo affascinante e denso di significato che troneggia di fronte alle file di poltrone di velluto dei cinema. D'altra parte, non si può dire di essere stati davvero su un set prima di avere effettivamente bazzicato quello di una produzione hollywoodiana. A Ron è già capitato da bambino di fare qualche comparsata qua e là sulla celluloide, ma è nel 1973 che arriva la sua grande occasione. George Lucas lo vuole a tutti i costi per un ruolo nel suo American Graffiti. Ai, non mi pizzicare! Non importi se te ne vai, credi che impazzirò di dolore. Quanto sei presuntuoso. Io ancora non capisco perché t'ho invitata la prima volta. Guarda che non mi hai invitata, sono stata io a invitarti. Come sarebbe sei stata tu? Era un giro che invitavano le ragazze, te lo ricordi? Se aspettavo che mi invitassi tu, stavo fresca. E dopo non mi telefonasti per 2 settimane. Beh, ero occupato. Avevi FIFA, me l'ha detto Dave Vogler. Poi quando cominciamo a uscire non mi baciasti per 3 appuntamenti di seguito. Beh, avevo... Avevi FIFA, me l'ha detto Jim Kyle. Lo chiesi persino a mio padre perché non mi baciava. Tuo padre? Brava. E sai che mi disse? Che la cosa era abbastanza naturale e che dopo un po' avresti cominciato a farlo. E tu invece col cavolo l'ho dovuto fare io. Il film è un omaggio nostalgico di Lucas alla sua gioventù e a quella dei ragazzi che come lui sono cresciuti a cavallo tra gli anni 50 e 60. Un carosello di situazioni in bilico fra il comico e il patetico, il grottesco e il sentimentale, in cui il giovane Ron Howard recita la parte di un tipico giovanotto di quegli anni alle prese con le spacconate tra amici e le consuete baruffe sentimentali. La parte di Howard in American Graffiti gli calza a pennello, tanto che i potenti vertici della ABC, uno dei grossi network televisivi americani, lo contatta immediatamente per affidargli un ruolo di tutto rispetto nell'episodio pilota di una serie nuova di zecca. Ron ancora non immagina che sarà proprio questa nuova occasione sul piccolo schermo a permettergli, in un futuro non molto lontano, di realizzare tutti i suoi sogni di gloria. Gli viene offerto di interpretare un ruolo molto simile a quello appena creato sotto la supervisione di George Lucas. La nuova serie televisiva, sulla quale la ABC punta moltissimo, è una minuziosa ricostruzione di una gloriosa epoca passata, non troppo lontana nel tempo, ma sicuramente nei cuori di milioni di americani, già ammantata di un denso fascino nostalgico. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday. Di sicuro, la musica che state sentendo non vi suona sconosciuta. Questa sigla del resto è inconfondibile, così come l'atmosfera che Happy Days cerca in ogni puntata di ricostruire con dovizia di particolari. Siamo negli anni 50 e l'America sta cambiando. Sono soprattutto i giovani che, stanchi della morale borghese, fanno di tutto per ribellarsi all'autorità. Nelle città, nelle province, in tutte le strade, esplode incontenibile l'entusiasmo dopo i disastri e le difficoltà della guerra. Le nascite subiscono un'impennata, dando origine al cosiddetto baby boom. E mentre in giro spuntano i drive-in, nei bar arriva il jukebox. È la stessa identica atmosfera di American Graffiti, come ricorda il giornalista Tom O'Neill. Happy Days è in tutto e per tutto la versione televisiva di American Graffiti, il film che nel 1973 ha letteralmente sbancato i botteghini in America. Nessuno più di Ron Howard è tagliato per interpretare Richie Cunningham, il giovane bravo ragazzo di buona famiglia alle prese con le turbolenze dell'adolescenza in quegli anni così ricchi di fermento. L'aria tenera e per bene di Ronnie è il punto di partenza scelto dai produttori per mettere insieme un ensemble di attori destinati a cambiare per sempre la storia della televisione. È stato il primo del cast ad essere scelto. Dopodiché abbiamo praticamente costruito il resto del cast intorno a lui. Quello che serve a Richie Cunningham, il bravo ragazzo con la scodella di capelli rossi interpretato da Ron Howard, è un'allegra famiglia di appartenenza. Una madre premurosa, un padre di sani principi, una sorella minore graziosa e strampalata da prendere in giro all'occorrenza. Ma più di ogni altra cosa, a Richie serve un comprimario. Richie Cunningham! Ciao, Fonzie! Lo sai, Cunningham, sei in gamba, sì, sei incredibilmente in gamba. Credimi, per uno che non guida la motocicletta... Oh, grazie. Tu vuoi che me la cavi a scuola, vero? Certo, naturalmente. Allora, devo confessarti che è veramente un grosso problema per me riprendere il ritmo. Tu mi capisci, vero? Insomma, adesso mi spiego meglio. Avrei bisogno di un po' d'aiuto. Con tutti quei compiti a casa che danno. D'accordo, di che aiuto hai bisogno? Avrei bisogno che tu mi facessi i compiti. Il perfetto compagno e contraltare del bravo e lindo Richie Cunningham si concretizza nelle sembianze del figo Arthur Fonzarelli, appassionato di motori ma non certo di studio. Se il personaggio deve molto agli sceneggiatori che ne hanno tratteggiato il carattere, di certo è debitore anche del talento di chi lo incarna. L'attore che veste i panni del grande Fonzi si chiama Henry Winkler. Henry Winkler. Winkler è stato scelto dai responsabili del casting della ABC dopo un breve ma illuminante provino. L'intenzione iniziale della produzione è quella di porre al centro della scena la famiglia Cunningham e in particolare Richie, il personaggio cardine che deve essere attorniato da una serie di figure minori che ne esaltino le caratteristiche. I produttori, quindi, non sono inclini a lasciare troppo spazio all'estro e alla personalità altrui, come ricorda lo stesso Winkler. Dovevo pronunciare una battuta di appena 6 righe nel pilota. La sera di giovedì 14 gennaio 1974 sulla ABC va in onda la prima puntata di Happy Days. I primissimi dati d'ascolto sono ottimi. A dire il vero, il picco assoluto di gradimento del pubblico viene registrato nel momento dell'apparizione sulla scena del ribelle Arthur Fonzarelli in sella alla sua immancabile motocicletta. I produttori della ABC intuiscono immediatamente che la figura di Fonzi merita di essere valorizzata ed elevata al pari di quella del suo amico Richie. È così che nasce una delle strane coppie più azzeccate della fiction. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are happy, happy days. These days are share them with me. Baby. Goodbye, gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo sul piccolo schermo, intenti a esplorare la genesi e i primi passi di una delle serie più famose dell'intero panorama televisivo. Stiamo parlando di Happy Days. I suoi creatori sfruttano con intelligenza e lungimiranza l'ondata nostalgica che negli anni 70 investe come un uragano le forme d'arte e i mezzi di comunicazione. Se al cinema trionfa American Graffiti e a teatro spopola il musical Grease, che di lì a qualche anno diventerà un celeberrimo film con John Travolta e Olivia Newton-John, sul piccolo schermo è il turno del secchione Richie e del suo amico smaliziato, l'intraprendente Fonzi. Spegni quel motore. Adesso va bene. E non dimenticare i miei consigli, scaldalo sempre prima di partire. Sì, sì, d'accordo, Fonzie. Ma perché sei così nero? Ti hanno rubato la sorpresina delle patatine? No. Vedi, il complesso ha la sua prima serata importante. Un ballo alla loggia del leopardo, Fonzie. Ehi, ci saranno un sacco di ragazze là. Le belle leopardine. Ma credo, ma noi saremo piuttosto occupati a suonare. Ma sei cretino? Tutte le ragazze vanno pazze per i musicisti. Non lo sapevo. Già, tu punti una ragazza che è uno spettacolo per gli occhi e mentre lei balla proprio vicino all'orchestra le mandi un messaggio muto. Quale messaggio? Buon compleanno no, ma semplicemente cara, io ti amo. Dici che funziona? Se te lo dice Fonzie, devi solo provarci. Fonzie ascolta il rock and roll, è un appassionato di motori, guarda i film con James Dean e Marlon Brando e si ribella allo stile di vita per bene delle famiglie borghesi. Gli anni 50 sono un periodo di vivo fermento. Le ragazze indossano le gonne a ruota e si scoprono finalmente combattute fra il ruolo tradizionale della mogliettina col grembiule che sforna biscotti e accarezza gli elettrodomestici e la nuova voglia di emanciparsi attraverso lo studio e il lavoro. I ragazzi vogliono divertirsi, trasgredire, schiacciano i capelli con la brillantina, si infilano i blue jeans e il mitico giubbotto di pelle, simbolo per eccellenza della voglia di emancipazione. Ma i vertici della ABC inizialmente non sembrano pensarla allo stesso modo. Non potevo indossare la giacca di pelle perché i vertici della ABC pensavano che il mio personaggio sarebbe stato associato al mondo del crimine. Al posto della giacca di pelle avevo un giubbino di tela. Non è mica facile sembrare figo con una giacca a vento beige. Eppure Henry Winkler ci riesce, arricchendo il suo personaggio con una serie di gesti e di espressioni inconfondibili. Il suo look in gran parte era già stabilito dalla produzione. Mi pare che anche la faccenda del pollice alzato fosse già scritta. Però tutti i vari wow, ehi, me li sono inventati in corso d'opera. Il tipico vocabolario di Fonzie, inventato un po' alla volta dal suo interprete Henry Winkler, contribuisce a renderlo uno dei personaggi più cool dell'intero panorama televisivo. Ma come ha fatto Henry Winkler ad arrivare proprio lì, in sella alla motocicletta di Arthur Fonzarelli? Leviamogli la giacca di pelle e andiamo a conoscere l'uomo che ci sta sotto. Sono nato nel West Side, a New York City. È lì che ho vissuto per 27 anni, prima di venire per un mese in California. Quel mese ha cambiato la mia vita. Henry Winkler è un newyorkese doc. È proprio nella Grande Mela che il futuro Fonzie nasce il 30 ottobre del 1945. Che tipo di bambino ero? Certamente ero estroverso. Ero sempre il più buffone di tutti. Avevo l'argento vivo addosso. Il piccolo Henry non ha certo dubbi su quello che vuole fare da grande. Quando era un bambino, che cosa pensava di voler fare da grande? Volevo fare l'attore. Madre casalinga e padre impiegato, entrambi emigrati in tutta fretta dall'atmosfera preoccupante e oscurantista della Germania di Hitler. Henry ha nel sangue la vena comica tipica di tanti ebrei destinati, come lui, ad avere fortuna nel mondo dello spettacolo. Gente del calibro di Mel Brooks, Woody Allen. Per Henry, così come per questi suoi illustri colleghi, la vena istrionica, i modi irresistibili, la verve spumeggiante sono soprattutto una questione di indole innata. Se davvero si nasce destinati a fare qualcosa, io ero nato per sforzarmi di provare a fare quello che sto facendo. Nato per fare l'attore, Henry non perde tempo e comincia fin da ragazzo a bazzicare i laboratori di teatro studenteschi. Dopo la scuola, si sottopone senza fiatare a estenuanti pomeriggi di prove, calcando con spavalderia le assi malandate dei palcoscenici dei licei della sua zona. Lo scricchiolio del parquet sotto i suoi piedi è la colonna sonora del suo impegno, della promessa di lavorare duramente per inseguire un sogno. Quel sogno che già da bambino gli faceva spesso perdere il sonno. È una cosa che ho sempre sognato. Mi sono sempre svegliato di notte pensandoci, desiderandolo, sognando ad occhi aperti. Io avevo bisogno di fare questo mestiere. Non poteva essere altrimenti. dalle assi consumate dei palcoscenici di Quart'Ordine, dalle palestre semivuote delle high school, alle aule certamente più affollate e prestigiose del Master of Fine Arts dell'Università di Yale. Ma il talento spesso non paga, anche se esercitato all'interno di una delle istituzioni più celebrate d'America, pronta a sfornare con cadenza annuale le migliori rappresentanze della cultura del paese. Harry, se vuole continuare a inseguire il suo sogno di gloria, non può continuare soltanto a recitare Shakespeare e Pinter. Da qui a recitare in svariati spot pubblicitari, beh, il passo è breve. Tutti quelli che avevano studiato con me a Yale mi dicevano: «Ah, io non so come tu faccia a fare gli spot pubblicitari. Sono totalmente contrari alle mie direttive estetiche. Io sono stato allevato esclusivamente per il teatro». La domanda successiva era sempre: «Non ci sarebbe una cosuccia anche per me?» Che c'è di male a racimolare un po' di quattrini per comprarsi la garanzia di inseguire i propri sogni? Con quelle pubblicità ho fatto abbastanza soldi per potermi permettere di andare a tentare la fortuna in California. E in California la fortuna lo bacia, catapultandolo sul set di Happy Days. Qui incontra il suo coprotagonista, Ron Howard, che in breve diventa molto più di un semplice collega. Innanzitutto c'era Ron Howard, che è come se fosse mio fratello. Gli voglio bene con ogni cellula del mio corpo. Dopo 7 stagioni di incredibili successi, però, Ron Howard è stanco di fare l'attore. Ciò che lo impensierisce non è tanto l'inevitabile identificazione col personaggio di Richie Cunningham, cui è molto affezionato. Il punto è che Ron, per sé, ha ben altri piani. Henry Winkler ricorda la concitazione di quei momenti. Ron decided to leave. Un giorno Ron ha deciso di andarsene. Mi ha telefonato e mi ha detto: «Henry, te lo devo proprio dire, oggi non vengo». «Cosa vuol dire che non vieni? Dai, sbrigati». E lui: no, non hai capito. Io non vengo più, non ho firmato il contratto, voglio fare il regista». Ho pensato che la mia carriera come attore fosse finita. Non avevo mai avuto e non avrei mai più potuto avere un partner come lui. Tra me e Ron c'era una connessione magica, silenziosa ed inscindibile. Ron Howard e Henry Winkler, Richie e Fonzie, un binomio collaudato che si spezza all'improvviso. Eppure da questa apparente rottura, sorretta dalla grande forza di un'amicizia, nasceranno fortune inaspettate. Tra poco, a Destini Incrociati. I want to break free. Destini incrociati. Richie Cunningham e Arthur Fonzarelli, al secolo Ron Howard e Harry Winkler, sono le star protagoniste di Happy Days, la serie televisiva che negli anni 70 tiene incollati allo schermo milioni di americani. Ron Howard, giovane erede di una famiglia di attori, è entusiasta di questa esperienza. Posso davvero mettere Happy Days nella lista delle cose belle che ho fatto nella vita. È davvero qualcosa di cui andare orgogliosi. Ma il ruolo del bravo figliolo a Richie Cunningham comincia a stare un po' stretto. Ron vuole di più, sente il bisogno di imprimere una svolta definitiva alla sua carriera. Vuole passare dall'altra parte della macchina da presa. Il retaggio familiare e gli anni di esperienza sul campo non hanno fatto altro che rafforzare in lui una convinzione. La recitazione è solo un punto di partenza, non un punto di arrivo. La sua spalla, Harry Winkler, la pensa allo stesso modo. Se sai quello che vuoi e tieni costantemente lo sguardo fisso sul tuo obiettivo e ti affatichi per raggiungerlo, beh, non c'è alcuna ragione per cui tu non possa farcela. Il legame instauratosi fra Howard e Winkler sul set di Happy Days non è certo di quelli facili da spezzare. In un certo senso è stato il mio maestro. Questo ragazzo diciottenne con le orecchie a sventole e un caschetto di capelli rossi mi ha insegnato un sacco di cose. È stato la mia guida. Henry Winkler attribuisce un ruolo importantissimo alla figura di Ron Howard. Viceversa, se Winkler non avesse vestito i panni di Fonzie, Ron Howard non avrebbe mai potuto iniziare la sua fulgida carriera di regista. La popolarità di Winkler, costantemente alle stelle proprio grazie all'immediata identificazione col personaggio di Fonzie, consente al neo-regista Howard di trovare un produttore che punti tutto su di lui. Se c'è Fonzie come protagonista, tutte le porte sono aperte. Il potere di Fonzie, e quindi del suo interprete Henry Winkler, sembra davvero non avere confini. I got to do so many great things. Sono riuscito a fare così tante belle cose. In una puntata, Fonzie chiedeva a qualcuno: «Ehi, dove posso fare la tessera per la biblioteca?» E il giorno dopo, le richieste di iscrizione alle biblioteche aumentarono del 5% in tutta l'America. Un'altra volta ho indossato un paio di occhiali da vista ed improvvisamente è diventato figo portare gli occhiali da vista. Era figo persino andare in ospedale se ci era andato Fonzie. Moltissime organizzazioni, anche benefiche, andavano dal nostro produttore e gli chiedevano di affrontare nelle puntate di Happy Days i più svariati argomenti, perché se lui lo avesse fatto, quei temi sarebbero stati immediatamente sdoganati e sarebbero stati subito percepiti dal pubblico in modo diverso. Ci siamo occupati di malattie, di integrazione razziale. Fonzie era amico di gente di tutti i colori, neri, nativi, americani. Era incredibile quel che Fonzie riusciva a fare. Tutto quello che Fonzie tocca diventa oro. Può sembrare surreale, ma Arthur Fonzarelli, un personaggio di finzione, è anche il principale responsabile del lancio della carriera di uno dei registi più acclamati della contemporaneità. Grazie al successo di Happy Days e grazie agli ascolti da capogiro che ha fatto, sono stato in grado di iniziare la mia esperienza come regista. Non sarei arrivato da nessuna parte se il mio punto di partenza non fosse stato quello. Night Shift, il primo film importante di Ron Howard, ottiene un buon successo proprio grazie al ruolo di protagonista di Henry Winkler, il Fonzie di Happy Days. Da questo momento in poi, la carriera di Howard dietro la macchina da presa è costellata di successi. Da Splash, una sirena a Manhattan, a Cocoon, a Cuori ribelli, film che consacrò la coppia Tom Cruise-Nicole Kidman. Il giornalista Tom O'Neill passa in rassegna una serie di titoli di successo. Tre dei suoi film sono stati messi dall'Academy nella rosa dei titoli in concorso per l'Oscar: Apollo 13, Frost Nixon e A Beautiful Mind, che di fatto ha vinto non solo il premio come miglior film, ma gli ha fatto portare a casa anche quello come miglior regista. A Beautiful Mind, pellicola che ricostruisce la biografia del geniale matematico americano John Nash, regala a Ron Howard il brivido di vincere la statuetta più prestigiosa. And Oscar goes to Ron Howard. Winkler ha fatto bene a credere nelle potenzialità del suo amico Ron Howard. È stato il primo a sorreggerlo nel suo sogno di gloria dietro alla macchina da presa, tutto merito di Fonzie. Indimenticabile personaggio da cui Winkler in fondo non riuscirà mai a separarsi, come ricorda Tom O'Neill. Recentemente Winkler ha fatto parte del cast di 4 film con Adam Sandler, il comico. Non dice mai «Ehi», eppure noi sembra di sentirlo ogni volta che compare sulla scena. Amico, consigliere, attore e infine anche produttore. Negli anni 90 Winkler si lancia a sua volta nel dietro le quinte del mondo delle serie televisive, dirigendo diversi episodi di telefilm già collaudati e producendo ex novo successi di portata internazionale. Uno su tutti? MacGyver. È Winkler in persona a parlare della passione che nutre per il suo mestiere. I love my job. Io amo il mio lavoro. E amo il fatto di potermi permettere di curare vari aspetti, varie sfaccettature dello stesso mestiere. A volte ancora non mi sembra vero di avere la fortuna di star davvero vivendo il mio sogno. A volte sono addirittura sopraffatto dalla consapevolezza della mia fortuna. Chi avrebbe mai detto che Fonzie, un meccanico col giubbotto di pelle, sarebbe riuscito a trasformare il timido e secchione Richie Cunningham in uno dei registi più acclamati del pianeta? Don't go with me. Don't go with me.